24 mattino. Tutte queste persone, professionisti, artigiani, via dicendo, che chiedono soldi a pioggia, pioggia, pioggia, ma nella vita non avevano mai risparmiato una lira per poter pagare le bollette in un mese, in due mesi di crisi. Abbiamo pagato dei soldi per liberare una persona che non è stata mai rapita, perché gli italiani non sono stupidi. Una persona che viene rapita, l'ultima cosa che gli viene in mente è aderire all'idea islamica delle persone che la rapiscono. Io sono cristiano, se mi rapisce un islamico l'ultima cosa che mi viene in mente è appoggiare le sue idee. Secondo me la Silvia Romano ha dovuto promettere, per essere liberata, di dire pubblicamente che si è andata con l'Islam. Non farei tante teorie. Al secondo ascoltatore, quello che ci diceva, a me non verrebbe mai in mente, guardi, io non so se lei è mai stato sotto sequestro per 18 mesi in Somalia. Io qua il grande tema, guardate, prescinde da Silvia Romano ed è un discorso generale, è che a volte parliamo senza aver coscienza delle situazioni reali. Quindi non sappiamo che cosa è successo a Silvia Romano, ok? Quindi giudicare è un po' così, mi pare un po' fuori luogo, in tutta sincerità. Detto ciò, le vostre voci le facciamo sentire, per carità, perché insomma è anche giusto, però un po' come, e mi perdoni il caro ascoltatore che ci dice, questi artigiani professionisti che non hanno mai messo niente da parte, ma lei ha idea di che cosa vuol dire portare avanti un'attività di quel genere con il carico fiscale che c'è in questo paese, con la quantità di burocrazia che c'è, magari un negozio che riesce a stare sul filo con un paio di dipendenti e che deve pagare l'affitto dei locali nei quali si trova, un mutuo per una ristrutturazione? Insomma, l'attività d'impresa è un'attività complessa, quando è piccola, sia quando è piccola che quando è grande, con tipi di complessità diverse. E l'attività della piccola impresa, che spesso è in carico al singolo imprenditore, al singolo artigiano, comporta anche questo, il fatto che magari si possa arrivare a fine mese con scarso fatturato o con un utile scarso, ristretto, quello che basta appunto dopo aver pagato i dipendenti per mantenerci la famiglia. Ci sta. Specie quelle attività stagionali, eh? Specie le attività stagionali. E va bene, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci in questo lunedì 11 maggio. Sono le 7:21 minuti e 30 secondi, è la seconda parte di 24 mattino e sulla vicenda di Silvia Romano, che tanto sta scaldando gli animi, torneremo tra poco, lo faremo con Paolo Mieli, dedicheremo l'apertura della parte con Paolo Mieli esattamente a questo, alle 7:30. Intanto diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, che insomma tengono dentro parecchio questa questione di Silvia Romano, no? Silvia è stata tradita, racconta il quotidiano La Repubblica, che entra nel dettaglio di quello che è successo e del modo nel quale sarebbe stata rapita. Islamica e felice Silvia l'ingrata è il titolo del giornale. Come vedete, qualcuno ci torna anche sui quotidiani. La Stampa più neutra, il virgolettato di Silvia Romano: io convertita, adesso il mio nome è Aisha. Conte e Di Maio fanno uno spot e un dono ai terroristi islamici, titola il quotidiano La Verità. Il Fatto Quotidiano: Silvia ora si chiama Aisha, il giallo della conversione. Abbiamo liberato un'islamica, è il titolo del quotidiano Libero, Silvia Romano, che dice appunto mi sono convertita. Altri quotidiani invece si concentrano sul virus, sui provvedimenti economici, sugli scontri all'interno dell'esecutivo. E allora per il Messaggero è lite sugli aiuti, sconto alle imprese, si parla dell'IRAP. Per il Corriere della Sera la lite invece è sui migranti, per il decreto un altro rinvio. Il Sole 24 Ore ci dice: imprese in crisi, niente IRAP a giugno, stop a 30 milioni di cartelle fiscali. Dopo un duro confronto politico, oggi il Consiglio dei Ministri, cancellati saldo e acconto dell'imposta sulle attività produttive per le aziende in difficoltà. Infine, il Quotidiano Nazionale, che ha un titolo centrale dedicato proprio a Silvia Romano, sono islamica. Il titolo principale invece su virus indebolito, ma è vietato dirlo, pochi pazienti gravi, ricoveri in picchiata, e un'intervista a Silvestri che dice: perché quando sostengo questa tesi certi colleghi mi insultano. Tutti i temi, anche quelli di Covid, cioè quelli un po' più generali di Covid, sui quali torneremo tra poco, sempre con, perché ci sono anche delle questioni politiche interessanti che hanno a che fare con tutto questo, ci torneremo con Paolo Mieli. Fatemi iniziare però dal luogo nel quale si può fare. Pagina 11 del quotidiano La Repubblica. Borgo Sesia. Attenzione a Borgo Sesia. Prove tecniche di scuole riaperte. Il pezzo lo firma Diego Longhin, appunto siamo a pagina 11 del quotidiano La Repubblica, e si decide di intervenire a Borgo Sesia in Piemonte per i genitori che hanno, quando entrambi lavorano e non sanno come organizzarsi con i bambini. Gruppi mignon, al massimo 4 o 5 bambini a seconda dell'età, educatori con mascherine, blitz in bagno una volta all'ora per lavare le mani, finestre aperte ogni 50 minuti per cambiare l'aria, obbligo dei test sierologici per genitori e assistenti e pranzo in classe che viene mangiato al banco distanziato dagli altri compagni. Ecco come potrebbe essere la scuola per i bambini da 3 a 10 anni da settembre. Ecco come sarà tornare a scuola domani per i 36 bimbi di tre cittadine del Piemonte, in provincia di Vercelli, Borgo Sesia, Varallo Sesia e Quarone. Domani torneranno sui banchi per quello che il sindaco di Borgo Sesia, Paolo Tiramani, deputato della Lega, definisce come un progetto di assistenza ai minori. Di fatto si riapre con il via libera della preside una scuola, il cui edificio è di proprietà del comune, dove le famiglie potranno lasciare i figli in età da materna ed elementare dalle 8 alle 18. Le famiglie sono disperate, in questo periodo non sanno a chi affidare i figli adesso che sono riprese le attività, dice Tiramani. Le misure del governo sono insufficienti, 15 giorni di congedo a fronte di un'emergenza di 3-4 mesi è nulla. E dunque è venuto il momento, dice Tiramani, di sperimentare soluzioni, non solo di studiarle su carta. Il modello Borgo Sesia per ora è aperto solo ai figli dei genitori tornati al lavoro. Abbiamo fatto un protocollo, racconta, attento a tutti gli aspetti, verificato da uno dei più importanti virologi italiani, Giovanni Di Perri, e controllato da uno dei medici, membri dell'unità di crisi del Piemonte, Roberto Testi. Siamo pronti a metterlo a disposizione del governo e della ministra Azzolina, viste le difficoltà a definire alcuni aspetti. Quindi da qualche parte si può fare, da qualche parte si sperimenta la riapertura quantomeno di nidi materne e di scuole elementari, seppure in questa strana forma e in questa strana formula. Ne avevamo parlato dei rischi di questa crisi, specie in una fase nella quale e qualche ascoltatore è tornato a scrivercelo poco fa, questi soldi che faticano ad arrivare, non solo la liquidità trasmessa dalle banche tramite il decreto liquidità, ma anche solamente, per fare un esempio, i soldi della cassa integrazione, che in alcuni casi ancora non sono arrivati. E dunque le difficoltà economiche, in queste difficoltà economiche nelle quali la velocità è tutto, la criminalità organizzata e gli usurai, insomma, trovano molto più che terreno fertile. Bene lo racconta La Verità a pagina 8 con Laura Della Pasqua, e tutto inizia con una telefonata. Siamo a pagina 8. Torino, Fondazione San Matteo, un giorno come tanti altri nel lockdown del coronavirus. Il telefono non smette di squillare. E c'è un virgolettato di un uomo che parla: mi hanno portato via tutto, ora vivo dentro il mio camion, è l'unica cosa che mi è rimasta, ma non so per quanto. Avevo bisogno di 5.000 euro per rimetterlo a posto, altrimenti non potevo lavorare. Non riesco a togliermeli di torno, mi chiedono di più, sempre di più, mi minacciano. Ho bisogno di soldi, aiutatemi. Dall'altra parte del telefono, da questa fondazione, gli dicono: li denunci, avrà la nostra assistenza. Non posso, ho due figli piccoli. E riattacca il telefono. Chiamate come queste ne stanno arrivando a decine alle associazioni della lotta all'usura. Il fenomeno si sta intensificando di giorno in giorno, racconta Laura Della Pasqua, ed è solo la punta dell'iceberg. Dietro ogni vittima degli strozzini che trova il coraggio anche solo per alzare il telefono, ce ne sono 50-100 che vivono nel silenzio di una realtà buia, fatta di ricatti, minacce, asservimento totale, in una condizione che è peggio della schiavitù. E raccontano appunto alla Fondazione San Matteo che stiamo vedendo i prodromi di un fenomeno che esploderà tra uno o due mesi, quando professionisti, artigiani, commercianti, partite IVA, ambulanti avranno esaurito i pochi risparmi in cassa. Vincenza Rando, vicepresidente di Libera, associazioni, nomi, numeri contro le mafie, di cui è stata anche avvocato di parte civile in vari processi contro la criminalità, sta vagliando le informazioni che arrivano dai vari enti e fondazioni. C'è anche una mutazione delle dinamiche messe in atto dalla criminalità organizzata e dagli usurai. Stanno seminando, i clan stanno costituendo associazioni benefiche che aiutano le famiglie in difficoltà, cominciando dalla semplice consegna della spesa. Hanno intensificato l'azione di ramificazione sul territorio in questo modo. In questa fase prestano denaro non a tassi elevati, anche come quelli bancari, perché l'obiettivo non è il denaro, che hanno già in abbondanza da altre attività, ma il controllo di aree sempre più vaste. È un tema che andrà affrontato con profondità. Questo della criminalità organizzata e dell'usura che entrano nel tessuto economico. Sul fronte sempre dei problemi e di come cambia la società, vi voglio segnalare a pagina 7 del Fatto Quotidiano Paolo Di Malio, in un lungo pezzo che occupa tutta la pagina 7 del Fatto Quotidiano, ci porta sulla grande questione di queste settimane che ha riguardato, insomma, chi ha figli a casa, ossia l'iperconnessione, e non solamente chi ha figli, l'iperconnessione. Per lavorare o studiare siamo online, ma anche per guardare una serie TV, chattare con gli amici, sbirciare sui social, fare shopping, giocare ai videogame, informarci sulla pandemia, sempre tutti connessi. Difficile capire se lo siano più i giovani o gli adulti. A marzo il traffico dati su rete fissa è salito del 64% in Italia. Il 35% dei ragazzi è online tra le 11 e le 14 ore al giorno. Il 35% dei ragazzi, secondo questi dati, un terzo. Prima del lockdown era solo il 15%, meno della metà, sfiorava le 10 ore sul monitor. Sono i numeri raccolti dall'Associazione Nazionale per le Dipendenze Tecnologiche con scuola.net. L'indagine fotografa la quarantena di oltre 9.000 ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Già prima si abusava, ora la dipendenza digitale può esplodere, avvisa il presidente di questa associazione. Ovviamente ammesso che la dipendenza digitale esista e di dipendenza digitale si possa parlare, e però, insomma, il tema della permanenza troppo a lungo sui device, soprattutto in questa fase, per i ragazzi c'è oggettivamente. E veniamo a chiudere questa prima parte con una cosa, se vogliamo, un po' più leggera, e però ha a che fare con questo mega scontro tra Fedez e il Kodakons, che è già scattato, come sapete, nelle settimane scorse, per chi segue un po' queste cose. Cosa è successo? Cosa era successo? Che Fedez e Ferragni avevano lanciato queste raccolte fondi tramite la piattaforma GoFundMe per raccolte fondi, la coppia Fedez-Ferragni e Salvo Sottile, per le raccolte fondi in favore della sanità italiana per la lotta contro il coronavirus, racconta a pagina 14 del Quotidiano Nazionale. Si racconta appunto in questo pezzo del Quotidiano Nazionale. Ottenendo un provvedimento, il Kodakons aveva fatto ricorso perché aveva denunciato come ingannevoli le commissioni applicate dalla piattaforma, e dunque l'autorità aveva dichiarato illecito il meccanismo di applicazione delle commissioni. Fedez si era imbestialito, se l'era presa col Kodakons, aveva scatenato i suoi followers, e dunque il Kodakons a sua volta reagisce e querela Fedez per diffamazione, calunnia, associazione a delinquere, violenza, minacce plurime e induzione a commettere reati, perché qualcuno avrebbe addirittura minacciato di morte il Kodakons nei commenti ai post di Fedez, il quale si allarga le braccia e dice: chi dà una mano si becca 100 querele. È fantastico. Siamo in un paese in cui tutto è possibile. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Se è vero che lo Stato italiano ha versato 4 milioni di euro per liberare la ragazza, possiamo, visto che sono soldi di tutti noi, sapere a chi materialmente sono andati? Una buona notizia sarebbe anche stata trovare una risposta, avere una risposta dall'Egitto su Regeni. E non mi sembra il caso in questo momento per questa ragazza, per carità, di fare un mese di festa nazionale come se fosse finita una guerra mondiale, insomma. Buongiorno Simone, ho notato dalla sua voce che anche lei si è arreso a questo nuovo decreto del governo. Chissà quando sarà fatto e come sarà fatto soprattutto, perché con tutti i punti interrogativi che ci sono. Caro amico, molti ce ne sono. Oggi finalmente vedremo queste pagine di decreto. Caro Paolo Mieli, buongiorno, come senti? Buongiorno, ascoltatori, eccomi. Ascoltatori molto caldi sulla vicenda di Silvia Romano, sulla liberazione di Silvia Romano. Alcuni ci scrivono sul tema della conversione all'Islam, altri appunto sulla questione del riscatto, su questi forse 4 milioni, forse 2, insomma non si sa esattamente, pagati per averla libera. E qua, insomma, tu quasi tutte le prime pagine dei quotidiani, salvo un paio, sono dedicate a questo tema. Beh sì, è anche un modo di voltare pagina. È il primo giorno in cui i giornali italiani danno una notizia, ed è una notizia lieta, perché comunque Aisha, chiamiamola col nome che lei si è data, perché Silvia Romano ha detto di essersi convertita all'Islam e di aver cambiato nome, come Cassius Clay quando si chiamò Muhammad Ali. Quando si converte all'Islam si cambia nome. Dice, ha raccontato che si fece dare una copia del Corano, anzi le diede una copia del Corano, lei lo lesse avidamente e lì dentro le frasi, i versetti del Corano ha trovato i motivi della sua conversione. Dice, e lo dico subito, di non essere stata trattata bene, non essersi né sposata e di non essere incinta. Lo dico questo perché molti, soprattutto sui social e anche sui giornali, con allusione, siccome si teneva la mano sulla pancia di questa tunica verde, hanno insinuato che fosse incinta. Lei dice, ha detto nelle prime dichiarazioni, che non è vero. Dicevo però, è un segno di pagina voltata. Poi parleremo anche del Covid-19, sì. Ma è il primo giorno in cui i giornali italiani danno una notizia, e anche i telegiornali aprono dando una notizia lieta e di segno diverso. Sì, dal punto di vista mediatico, quantomeno il segnale forte. Non so se è definitivo. Sì. Si volta pagina. Poi le polemiche, insomma, hai già detto tutto su quello che il rilascio attraverso una mediazione della Turchia, era detenuta da una banda di radicali islamici che si chiamano Al-Shabaab e che acquistano un grande valore nel mercato, perché lì è una competizione fra sigle islamiche, questi Al-Shabaab, nel senso che sono stati ricoperti anche dalla stessa ostaggio, da tali elogi, che adesso hanno una fama maggiore. Rapiscono, anzi fanno consegnare una rapita attraverso la Turchia, mediano, guadagnano un bel po' di soldi e si fanno la fama di buoni. Questo è diverso dai differenti casi. Ovviamente sì. Oggi tutti i giornali vanno a caccia delle precedenti rapite, molte donne, molte sì. Donne. Uno, Guido Olimpio, scrive sulla Stampa, è tornato a fare il giornalista della Stampa e fa un suo ritratto e spiega anche che anche a lui fu offerto, non Guido Olimpio, scusa, Domenico Quirico. Domenico Quirico, sì, certo, anche lui. Scuso con gli ascoltatori, Domenico Quirico sulla Stampa fa un ritratto e dice anche a lui fu offerto di cambiare nome, il Corano e tutto, che è un rituale consueto. Giuliana Sgrena, sempre sulla Stampa, racconta i suoi tormenti. Lei fu rapita nel 2005. E ricordo che durante l'operazione per la sua liberazione venne ucciso il dirigente del FISMI, sì. Nicola Calipari. Poi le famose le due Simone, Simona Pari e Simona Torretta, sì. Che furono rapite nel 2004. E Vanessa e Greta, sì. Greta Ramelli e Vanessa Margiullo. Rapite nel 2014 in Siria, sì. No? Dopo rilasciate dopo cinque mesi di prigionia. Tra l'altro vi ricordo che Domenico Quirico sarà ospite di Alessandro Milan alle 9:15, quindi avrete poi dalla sua viva voce, no? Il racconto di quello che è successo. All'ombra di tutto questo, Paolo, ci sono anche delle questioni politiche, a partire da... Le questioni politiche, perché ci sono tante questioni. Allora, primo, quello che ha detto anche un ascoltatore, noi lasciamo, sembra che siano stati dati 4 milioni, qualcuno dice 1,5 milioni, insomma, molti soldi sono stati dati per il riscatto e alcuni giornali dicono, ma insomma queste ragazze vanno lì per fare un'esperienza di vita lodevole. Però forse dovrebbero rilasciare all'atto della partenza un documento in cui dicono che affrontano questi rischi senza metterli in carico alla comunità, perché sì. Quei soldi avrebbero potuto essere destinati a un ospedale e sarebbe stato meglio, mentre noi paghiamo, io lo registro senza commentarlo in questo caso, ma è molto vivace questo tipo di polemica, noi... paghiamo questo sogno di questi sì. Ragazzi e ragazze, spesso sono ragazze, che vanno a fare questa esperienza di vita. Poi moltissimi altri dicono, ma che sistema è? Noi li liberiamo, paghiamo 4 milioni e tornano con la divisa del gruppo che li ha tenuti del nemico per così dire, sì. No? Alessandro Sallusti sul giornale dice come se ce l'avessero rapito dei nazisti e tornassero in una divisa hitleriana. L'esempio non è ben scelto perché insomma non si dà una situazione simile, però è quel genere di protesta e dire insomma almeno un minimo di decoro. Però poi ci sono anche le polemiche politiche, in Italia tutto finisce in politica, perché Conte, adesso lo dico in modo scherzoso, ha scippato sì, la cosa il, a Di Maio. L'atteggiamento a Di Maio, nel senso che ha tenuto Di Maio, il quale ha condotto le trattative negli ultimi 6 mesi in modo particolarmente intenso, e non lo ha neanche avvertito. Di Maio si è trovato spiazzato. Conte ha annunciato lui il rilascio della ragazza e si è fatto trovare in prima fila. Poi certo ha chiamato anche Di Maio, ha fatto la solita foto sì. In cui si salutano col gomito, ma questo saluto col gomito ha lasciato poi il spazio perché lei si togliesse la mascherina e abbracciasse come era sì. Naturale che facesse sì. I suoi genitori, però poi si è rimessa sì. Subito in quarantena. Sì. Il ministro della difesa Lorenzo Guerini sì. ha detto a mezza bocca, ha lasciato sì. Scrivere ai giornali sì. Che tutto questo spettacolo dell'accaparramento dell'immagine mi è sembrato un po' imbarazzante, un po' imbarazzante. Detto ciò, ecco qua abbiamo questa specie di retroscena di Tommaso Ciriaco sulla Repubblica, pagina 4, e ci racconta come Di Maio sarebbe stato tenuto all'oscuro del blitz e quindi si sarebbe appunto notevolmente innervosito e poi avrebbe cercato di recuperare in qualche modo. Allora, il traffico, e poi veniamo alle cronache da coronavirus, magari iniziando proprio dalle questioni politiche. A tra un attimo. Ed eccoci di nuovo. Caro Paolo. È caduto Paolo Mieli. Allora, facciamo una cosa, iniziamo intanto questa parte della rassegna stampa dedicata alla politica con, direi, questa intervista al giornale al sindaco di Milano Beppe Sala, ed è un'intervista insolitamente dura nei confronti del governo, cioè che già le tensioni con l'esecutivo stessero crescendo lo avevamo visto, Paolo, e che poi però troviamo appunto questa intervista sul giornale nella quale il sindaco dice: darò una mano ai commercianti, governo in ritardo, ora fuori i soldi. Insomma, bello tosto, mi pare. Sì, no, ma poi dice tantissime altre cose, le interviste a Giannina Della Frattina, come hai detto, sul giornale. Dice che Draghi è un fuori classe, governissimo, sarà difficile farlo con questo Parlamento. Matteo Renzi o Zingaretti giù dalla torre, non rispondo, ma al PD serve una voce critica. E poi dice una frase molto indicativa, dice: mi candiderò di nuovo a Milano, prima di decidere rifarò il cammino di Santiago, perché insomma è chiaro che ce l'ha non solo col governo, ma ce l'ha anche un po' col suo partito, si è sentito abbandonato. Devo dire che lì c'è stato un imbarazzo nel PD, perché come è noto Sala fu fra i più entusiasti decisori che Milano andava lasciata aperta agli aperitivi, invitò Zingaretti a prendere il famoso aperitivo, che si beccò anche il Covid, il povero Zingaretti, e quindi in un primo tempo fu preso in contropiede, poi si rimise in corsa e adesso ripresenta sulla scena politica con questa intervista molto forte, in cui accusa non gli avversari, come è normale che si faccia, soprattutto in Lombardia le polemiche del PD contro la regione sono state forti, ma accusa i suoi compagni del partito. Direttamente un'intervista che non passerà inosservata. Direi di no, così come non passerà inosservato, e visto che Sala molto ha parlato delle questioni economiche in questa intervista, così come non passerà inosservato questo decreto rilancio che finalmente dovrebbe arrivare all'approvazione oggi in Consiglio dei Ministri. Lo abbiamo raccontato ieri, il ministro Gualtieri, ospite da Fabio Fazio, che sventolava questo plico gigantesco di centinaia di pagine di decreto. Il Sole 24 Ore ci porta qua, pagina 2-3, con Mobili, Rogari e Trovati, che ci raccontano un po' qualche dettaglio di questo provvedimento. Lo stop a 30 milioni di cartelle avvisi del fisco, la rata di giugno cancellata per l'IRAP e per le imprese in crisi, insomma, prende forma. Sì, il tutto però in un'atmosfera anche qua di festa, non più per la liberazione di Silvia Romano, ma qua perché gli indici di contagio scendono. Ieri domenica è stata una domenica di festa, la gente è andata al mare, si è mossa, più di quanto consentissero le leggi o consentisse la legge. E tutti si stanno compiacendo del fatto che il virus, il contagio diminuisce. Però io nel mio piccolo e dalla lettura attenta dei giornali dico: attenzione, perché vedo che in Cina è ripartito il contagio, per carità, loro lanciano un allarme, in Germania l'indice R è visto come molto pericoloso e quindi anche lì sono molto attenti. La Repubblica pubblica uno splendido reportage di Federico Rampini, che prende poi tra la notizia della prima pagina del New York Times di ieri, sul fatto che New York rimarrà probabilmente chiusa o in grande difficoltà fino alla fine di luglio. Non è questione di regioni, il Molise e la Calabria che vanno allo zero. Questa è un'epidemia mondiale e noi dobbiamo tenere l'occhio a quello che succede anche nel resto del mondo. A parte il fatto che anche in Italia i rischi ci sono ancora e sono belli presenti, ma poi in un sistema globalizzato come fu globalizzato l'ingresso nella pandemia, e così bisogna, non basta compiacerci, ripeto, che in qualche regione o qualche parte di una regione le cose stiano andando meglio che ad altri, nel senso che i nostri paesi sono dei pagliai su cui può cadere un fiammifero e creare danni, mi auguro non uguali a quelli di allora, a quelli di 2 mesi fa, ma insomma danni ne può creare. Ecco. Sì. Comunque appunto il tema in questo momento che sta un po' dominando la scena è il come e quando ripartire. Abbiamo parlato poco fa col sindaco di Bolzano, tra l'altro vi segnalo tra le altre la pagina del Messaggero, ma non è la sola. E però è quella che più nettamente dà l'idea che Lombardia e Piemonte siano a rischio per le riaperture del 18, ossia col ministro Boccia che dice ok, dal 18 si potrà iniziare a ragionare su riaperture più ampie, e però appunto c'è un rischio per quanto riguarda Lombardia e Piemonte. Allora, altre questioni sulle quali vorrei portarti, Paolo, il tema delle carceri, perché resta in primo piano la questione Bonafede, Di Matteo, il DAP, i boss scarcerati. Per la prima volta un quotidiano, in questo caso La Verità, con Maurizio Tortorella ci porta sull'ipotesi rimasta sotto traccia che le rivolte carcerarie delle settimane, dei giorni iniziali di questo lockdown da coronavirus siano state parzialmente, se non totalmente, sobillate esattamente dalla criminalità organizzata per arrivare a un risultato di questo genere. Sì, fu un'ipotesi che si fece già allora, però colpisce vedere un pentito di mafia, quello di cui parla Maurizio Tortorella, che non è di secondo piano, è Gaspare Mutolo, un uomo che fu convinto a collaborare a Giovanni Falcone, fu interrogato da Borsellino 2 giorni prima della sua uccisione. Beh, lui dice che, attenti, che io non ne sa niente direttamente, ma vedo un disegno sia nella eliminazione 2 anni fa di Matteo dalla gara per la guida del DAP, e tutto quello che è successo adesso è evidentemente sotto l'evidenza è sua, sotto la guida della mafia, che prima ha fatto scoppiare delle rivolte ad arte, tant'è la prova è che non sono rivolte che hanno avuto un seguito, sì. Un giorno di rivolte, 13 morti ed era un segnale. Poi sono stati messi in libertà questi boss, mafiosi, non tutti i boss, perché pare che i boss fossero 6 boss, i grandi erano solo 3, ma insomma tanti piccoli e grandi malavitosi. E a questo scoop della Verità di cui parli tu si aggiunge oggi sul Fatto Quotidiano un'intervista al procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli, che dice testuale: liberare i boss è dimenticare le stragi e cosa siano le mafie. Cioè, il Fatto Quotidiano era un giornale, l'abbiamo detto più volte, che cercava di buttare acqua nella polemica fra Di Matteo e Bonafede. Il fatto che pubblichi oggi questa intervista a Tescaroli mi fa sospettare che lì la vicenda sia chiusa, che invece la vicenda è nato non sia chiusa. Un nuovo caso trattativa. Vedremo. Infatti quel pentito dice trattativa stato mafia dietro la scarcerazione dei boss. Al famoso caso trattativa che riguardava il 1992 e che ebbe come protagonista Nino Di Matteo, adesso sempre protagonista Di Matteo, nuovo caso trattativa. Vedremo. A chiudere, Paolo, abbiamo veramente 30 secondi. A proposito di riapertura delle attività, scorgo sempre sulla Verità, a pagina 14, un'intervista di Patrizia Floder-Reiter con un con un esorcista, Don Giannissini, il quale dice: i nostri riti sono fra quelli bloccati, gli indemoniati ne hanno bisogno ogni settimana. Beh, anche questo è un tema. Ma se la prende poi con il Vaticano, dice, loro sì, non tengono conto della nostra attività, si preoccupano solo delle messe, urlando tutta la sofferenza che provocano per loro, i sacramenti spirituali non bastano. I parenti chiusi in casa non riescono ad affrontare da solo un posseduto che piomba in crisi. In compenso, sì, dei disagi da quarantena ne approfittano maghi e cartomanti. Solitudine, paura a misura, ha denunciato un aumento di persone che si consegnano a indovini occultisti per superare la crisi. Tutto quanto sulla verità. Pagina 14 e 15. Tutto si tiene. Grazie Paolo Mieli, ci risentiamo mercoledì. Ciao Paolo, buona settimana. Ci fermiamo il GR24 ovviamente, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo della vicenda di Silvia Romano e poi avremo il vice ministro dell'economia Misiani per parlare un po' di questo decreto in arrivo. Tra poco.